się napinać stale. Dobre błąd dalej, jest to, co czyta po nami dalej. Daj, nie konoj. Sorry, za to, a tu to dynie. Daj, nie konoj. Porta tak, to są nie kiedy to mienie. Daj, nie konoj. Siamo illuminati negli eletti. Dai, vieni con noi. Guarda come ci divertiamo, siamo perfetti. Dai, vieni con noi. Non sarà più solo, ti sembrerà di spiccare al volo. Come sarò felici di avere i nostri riunioni. La vita è uno spettacolo dove anche tue perfezioni. Racconta la tua storia che abbiamo soltanto una vita. Ci deve stare per sempre, gratitudine infinita. Il mondo alla media, ti dovrai accettare. L'unico mondo possibile nella società piramidale. Per vivere tuo flamero, dovrai accettare. L'unico mondo possibile nella società piramidale. Dai, vieni con noi. Il mondo è pieno di potenziali clienti. Dai, vieni con noi. Conquisteremo tutti i continenti. Dai, vieni con noi. Non abbiamo paura di nessuno. Dai, vieni con noi. Al nostro meeting, al nostro raduno. Dai, vieni con noi, vedrai che cambiamento. Ridiamo la cura e il trattamento. Il nostro leader ci indica la strada buona. Se non segui le indicazioni, il nostro non funziona. Abbiamo un saltone che decide per noi. E siamo superiori ad ognuno di voi. E dal nostro recinto non ce ne possiamo andare. Non possiamo scappare dalla società piramidale. E dal nostro recinto ce ne possiamo andare. Non possiamo scappare dalla società piramidale.